Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi voliamo veramente in alto, un po' come la colomba bianca che stava al centro del primo album della band più famosa fondata dal protagonista della puntata di oggi, un grandissimo musicista che ha dato grande dignità, enfasi, interesse, poesia a una musica che ha inventato lui, che possiamo chiamare progressive, possiamo chiamare musica contemporanea, la possiamo chiamare in tanti modi. Insomma, sto parlando di Keith Emerson, che è ovviamente appena scomparso, e ci sono arrivate tantissime segnalazioni di persone che volevano che parlassi di lui. Abbiamo scelto un nostro ascoltatore che si chiama Roberto Savastano. Buongiorno Roberto. Buongiorno a te Enrico. Senti, tu sei stato tra i primi, probabilmente sei stato uno di quelli che avrebbe voluto sentire la storia di Emerson anche prima di sapere che Emerson era scomparso. Perché Emerson? Allora, innanzitutto perché da che ho scoperto Emerson, Lake & Palmer, quando avevo circa 12-13 anni, ho iniziato ad appassionarmi veramente di musica. Prima era una cosa che proprio non mi interessava. E se oggi ascolto praticamente di tutto, devo dire grazie a questo trio. E poi perché mi interessa come personaggio, perché ha saputo coniugare una grande versatilità, la capacità di essere assolutamente un virtuoso, ma anche di non prendersi mai troppo sul serio e di scherzare con la musica e regalare sostanzialmente del puro divertimento. Soprattutto mi colpiva in un periodo, gli anni 70, in cui c'era più la ricerca, soprattutto qui da noi, della musica che dovesse comunque trasferire dei temi politico-sociali. Esatto. E invece lì mi dava l'idea di essere principalmente il piacere di fare musica. Poi dopo, se c'erano anche temi da trasmettere, come può succedere in Tarkus con la critica alla guerra del Vietnam, era anche un qualche cosa in più, ma non era di sicuro l'elemento fondante. Certo. Di quella che era l'idea della musicalità in questo genere musicale. Roberto, ti ringrazio infinitamente, buona puntata. Grazie mille a te e buona puntata a voi. Ladies and gentlemen, please welcome for their first debut performance ever, Emerson, Lake and Palmer. Quello che avete ascoltato è l'annuncio del debutto di Emerson, Lake & Palmer sul palcoscenico, il grande concerto nell'isola di Wight. Siamo nel 1970, su quel palco sono saliti Jimi Hendrix, gli Who, Jethro Tull, 600.000 spettatori, una di quelle super band che stavano nascendo in quegli anni, trova il suo debutto su quel palco, in quel meraviglioso concerto, in quella cornice. Poco tempo prima c'erano stati i Cream con Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, cioè tre musicisti che arrivano da tre band diverse e che formano quella che appunto che si chiama Super Band. E qui ne arrivano altri tre. Oggi vi voglio parlare proprio del leader di questa band, o comunque del fondatore, perché è difficile parlare di leader a quei livelli. Stiamo parlando di Keith Emerson, che proprio all'isola di Wight stupisce il pubblico. Con la performance all'isola di Wight eravamo consapevoli del fatto che il nostro fosse in un certo senso un supergruppo, composto da Greg di King Crimson, Carl di The Crazy World of Arthur Brown e io che venivo dai The Nice. Dunque c'erano grandi aspettative. Eh sì, per il debutto di Emerson, Lake e Palmer, detti poi Help, c'erano veramente grandi aspettative, perché loro sono state una delle band più importanti, forse, l'ho detto prima, quasi fondatori di un genere, perché era un progressive rock che però aveva delle radici ben piantate nella musica classica, e lo vedremo poi come. Era un mondo di partiture complesse, di musicisti super preparati. Insomma, è difficile trovare un'unica definizione per Emerson, Lake & Palmer. Le case discografiche non sapevano bene dove mostrare o dove incasellare i nostri album nei negozi di dischi. Non sapevano se metterli nella sezione di musica classica, in quella di musica jazz o in quella di musica rock. Alla fine ci misero nella sezione rock, ma allo stesso tempo continuavano a chiedermi: come vi definite? E alla fine dicevo che di base facevamo musica contemporanea. Said, well, basically we play contemporary music. E come avete sentito, si può ben capire la perplessità dei discografici. È difficile definire una musica del genere. Sicuramente la matrice principale è proprio lui, Keith Emerson. Le sue capacità musicali gli permettono di scivolare da un genere all'altro senza colpo ferire, sempre con risultati grandiosi. Però partiamo dall'inizio. Ho iniziato a suonare a 8 anni, a orecchio. Poi i miei genitori mi dissero che avrei potuto prendere lezioni di pianoforte. Mio padre, anche lui, aveva imparato da solo e suonava a orecchio. Ricordo che quando ero molto giovane, credo avessi 4 anni, mio padre comprò un pianoforte verticale e io rimasi affascinato da questo grande strumento. Lui si sedeva lì a suonare e poi invitavano gli amici per delle serate musicali e la gente veniva a casa per cantare. E così inizia la passione di Keith Emerson, una famiglia musicale, un pianoforte, e lui è figlio di gente modesta, nato nel nord dell'Inghilterra, nello Yorkshire. Forse il suo destino avrebbe dovuto essere quello di tanti figli di una famiglia senza grandi mezzi, un lavoro normale, le serate al pub, ma lui ha talento, un talento enorme. In realtà ho imparato da solo. Molta della mia preparazione l'ho fatta comprando libri di orchestrazione su come scrivere partiture, perché ascoltavo tantissimo i brani di David Brubeck, che a quel tempo era il mio grande eroe. Eh sì, Kate è un ragazzino, un adolescente che invece di andare in giro con gli amici rimane a casa a provare nuove composizioni musicali. E il suo supereroe non è Batman e non è neanche il musicista da 4 accordi, è David Brubeck, il grande jazzista, autore di musiche come Take Five, per intenderci. Ma i grandi jazzisti non sono le sue uniche fonti di ispirazione. Lui ama anche la musica classica, Bach, Rachmaninov, e pensate che non è mai andato in conservatorio. Non ho mai avuto un insegnamento classico. Fino ai 14 anni ho preso lezioni private di pianoforte, ma dopo un po' ho iniziato ad annoiarmi. In realtà la mia ultima professoressa di pianoforte mi disse: non ho più nulla da insegnarti, ti suggerisco di andare a Londra, alla London School of Music. In quel periodo vivevo ancora a casa con i miei e così pensai: no! In effetti a 14 anni si è un po' piccoli per andare a studiare in una grande città come Londra, ma non per andare a suonare nelle sale da ballo della sua città. È un modo per farsi le ossa. Questo mix tra musica classica e quella più contemporanea, quella che fa ballare i ragazzi, diventerà una delle caratteristiche che segneranno il suo percorso e il suo trionfo. Il falco e il gabbiano. Keith Emerson è stato benedetto da un talento musicale che si rivela da subito. La maestra di pianoforte rinuncia a dargli lezione perché dice che non ha più nulla da insegnargli, e lui continua la sua parabola musicale da solo, accompagna le lezioni di ballo che dà sua zia e poi fa le prime esibizioni nei locali. Ed è con quei soldi che a 17 anni compra il suo primo strumento, un organo Hammond. Però lui desidera soprattutto avere una band. Il sogno si realizza quando a 20 anni fonda un gruppo che si chiama Vips. È solo l'inizio, perché nel 67 fonda un'altra band che avrà un destino ben diverso. Sono i Nice, e qui si inizia a fare sul serio e vive fino in fondo la sua vera natura profondamente musicale. Ce lo racconta in un'intervista realizzata dalla Rai negli anni 80. Io penso che ognuno di noi abbia un suo modo di esprimersi. Alcuni usano le parole, altri le immagini. E io ho un solo modo per esprimermi: la musica. The best way for my self-expression. e con i Nice Emerson inventa quello che sarà il suo marchio di fabbrica, perché pur essendo una delle persone più musicali della storia della musica di tutti i tempi, perché lui suona il pianoforte, l'organo, il sintetizzatore, però sa essere anche un grande uomo di spettacolo, si fa tutt'uno con lo strumento, è come se non ci fossero barriere tra lui e l'organo Hammond. Durante i concerti tratta le sue tastiere come parte integrante della performance. Quando suona già con i Nice, lui pesta sui tasti e sembra ingaggiare una lotta con loro, frusta il piano, lo cavalca, si stende sopra, anche i suoni vengono fuori di conseguenza, violenti, dolci, sincopati, allungati, insomma, a differenza della maggior parte delle band dove la chitarra era il fulcro musicale, con Emerson sono le tastiere a diventare le grandi protagoniste. Durante quel periodo con i Nice, Emerson sente per la prima volta suonare un Moog. Era il grande sistema di sintetizzatori inventato dall'ingegnere Robert Moog. È amore a prima vista. Il punto è che adoro la teatralità del Moog. È bellissimo da vedere e perfetto per i concerti dal vivo. Prima ancora di iniziare a suonare, la gente si avvicina al palco, sbircia attraverso le tende e li vedi che gli occhi gli si illuminano e iniziano ad esclamare «Wow!», come se fossero davanti alle lucine del supercomputer di 2001 Odissea nello spazio. Nel frattempo i Nice, suonando dal vivo, incrociano un altro gruppo. Leader del settore sono i King Crimson, il capo, l'anima è Robert Fripp, il disco è In the Court of the Crimson King, è un disco che viene giustamente definito un capolavoro, forse uno dei maggiori capolavori dei King Crimson, però la band procede a fatica perché anche qui insomma il leader è un personaggio piuttosto particolare. Tra coloro che abbandonano il gruppo c'è Greg Lake, che era la voce angelica che aveva intonato il primo e il secondo album dei King Crimson, e Lake e Emerson cominciano a fare la loro conoscenza. Eravamo al Fillmore West di San Francisco. I King Crimson stavano cominciando a disintegrarsi. Ian e Mike non volevano proseguire il tour e stavano facendo pressioni sul resto della band. Così sul palco al soundcheck incontrai Keith. Stava suonando qualcosa al piano. Non ricordo cosa fosse, un brano jazz. Mi sono avvicinato e ho suonato con lui. Parafrasando la battuta finale di Casablanca, è l'inizio di una grande amicizia. E anche Emerson sente che la sua esperienza con i Nice si sta concludendo e nel 70 lascia il gruppo, e nello stesso anno Greg Lake si sta allontanando dai King Crimson e c'è un'altra band in difficoltà, sono gli Atomic Rooster, dove c'è un batterista, Carl Palmer, che aveva già suonato anche con Arthur Brown, quindi un astro nascente dello strumento. Insomma, i tre cominciano a incontrarsi, stanno per nascere gli Help, Emerson, Lake and Palmer. Molte persone rimasero sconvolte, perché non eravamo più i King Crimson, non eravamo più i The Nice e non eravamo più nemmeno i Crazy World of Arthur Brown. Avevamo distrutto tre grandi band e venimmo molto criticati per questo. Come abbiamo visto più volte in questo programma, è proprio quando le cose cambiano drasticamente che c'è spazio per dare il colpo d'ala che fa volare in alto. Questa è la grande intuizione di Keith Emerson. Si lascia alle spalle il successo dei Nice per provare a fare qualcosa di completamente diverso. È la prova che questa è la strada da compiere per ottenere il meglio dalla propria esistenza. Cambiare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia, la vita dell'immenso Keith Emerson, che si è ucciso il 10 marzo del 2016 con un colpo di pistola, perché uno dei più grandi tastieristi della musica rock ha deciso di morire. Beh, intanto è impossibile sondare l'animo di una persona. Però possiamo pensare che il fatto che Keith Emerson fosse veramente arrivato al vertice, perché era proprio il numero uno, anche in un mondo nel quale tutto è opinione, per quanto riguarda il suonare le tastiere, Emerson era il più bravo di tutti. è forse difficile sopportare il declino fisico dopo aver avuto un passato così. E con una band che è stata definita le Nazioni Unite del rock, tre superpotenze musicali. Carl Palmer, il batterista di questa band, degli Emerson Lake Palmer, descrive molto bene quella sensazione. A quel tempo la connessione emotiva fra di noi era la stessa di tanti altri gruppi. Eravamo tre ragazzi che volevano provare al mondo che erano i migliori. In un certo senso ci vedevamo come dei ribelli, volevamo spingerci più in là, volevamo sfruttare le nuove tecnologie, volevamo fare leva sulla nostra inglesità, riarrangiare brani classici, volevamo fare migliaia di cose. Direi che in questo senso l'atmosfera che si era creata fra di noi fosse molto promettente. The atmosphere between us at that time was extremely encouraging. E i risultati sono rimasti ancora oggi. Emerson, Lake e Palmer hanno fatto la storia del progressive rock dopo il loro debutto all'isola di Wight. Loro esplodono in una vera e propria tempesta musicale. Il gruppo è nato da poco all'isola di Wight e quindi suoneranno Take a Pebble, scritto da Greg Lake, e poi il riarrangiamento della sinfonia Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Per l'occasione Emerson fa cose strabilianti con il suo Moog, accoltella la tastiera, cose che non si erano mai viste prima. Il successo è assoluto. I critici, che a volte sbagliano, non apprezzarono tutti l'esibizione. Un famoso DJ dell'epoca, John Peel, definì la performance un tragico spreco di tempo, talento e elettricità. E Greg Lake era di diverso avviso. In una sola notte raggiungemmo il successo. Il giorno prima dell'isola di Wight eravamo relativamente sconosciuti. Il giorno dopo l'isola di Wight eravamo universalmente conosciuti. Il giorno dopo, ogni giornale riportava la storia di come gli Emerson, Lake and Palmer fossero letteralmente esplosi. Per noi fu un'incredibile vetrina. It was a great showcase for us. E c'è subito il contratto con la Atlantic Record, e nel 71 arriva il primo album chiamato Emerson, Lake e Palmer, quello della colomba. Esecuzione perfetta, tre musicisti che sanno gestire i loro strumenti in maniera incredibile: rock, jazz, musica classica. I puristi rimangono perplessi, ma è quello che andava fatto secondo Greg Lake e secondo la storia. Non puoi realizzare cose straordinarie restando nell'ordinario. Non puoi rompere quelle fottute barriere se non fai qualche danno. Credo che in quel senso noi abbiamo infastidito molte persone, ma in generale ho sempre avuto la sensazione che il pubblico, la gente, amasse la band. Sapevano cosa eravamo, potevano capire cosa eravamo. E poi esce il secondo album, Tarkus, un altro trionfo. C'è una lunga suite in cui Emerson ha le tastiere dal meglio di sé. L'album arriva primo nella classifica inglese, nono negli Stati Uniti. Pensate, album del genere arrivavano ai primi posti in classifica. Pensate adesso cosa c'è nei primi posti, tanto per fare un raffronto. Intanto Emerson ha finalmente potuto comprare il suo Moog personale. È uno di quelli grandi, modulabile, insomma non è proprio una cosa semplice, è una parete enorme piena di cavi. Mi era costato un sacco di soldi. Poi finalmente arrivò e io ero tutto eccitato. Lo tirai fuori dagli imballi e lo composi sul tavolo e pensai: wow, è fantastico, un sintetizzatore Moog. Ma come si accende? Era pieno di cavi e roba del genere, ma non c'era alcun manuale con le istruzioni. Eh sì, perché Emerson non è solo un grande musicista, poco a poco diventa anche un ingegnere, un esperto di sintetizzatori. Gli vengono mandati nuovi modelli da provare, da mettere a punto, e a differenza di altri che usufruiscono dei sintetizzatori solo in studio, lui usa il Moog soprattutto in concerto. Il suo Monster Moog era così grande, 250 kg di peso, alto 3 metri, doveva essere gestito da 4 macchinisti, ma è proprio la sua imponenza che piace a Emerson, e che amava la teatralità delle sue esibizioni, tanto da concepire anche un'esibizione volante con l'organo. Penso che avere la patente da pilota mi abbia aiutato un bel po'. Uno della nostra squadra mi disse di aver conosciuto un ragazzo che lavorava in un circo, che faceva anche un sacco di cose per la TV e per gli effetti speciali. mi disse che aveva inventato una cosa che forse avrebbe potuto interessarmi. Un pianoforte che poteva girare su se stesso. E io risposi subito, però, sembra interessante. Così con un complicato sistema di funi e di argani, Emerson riesce a girare su se stesso mentre suona il piano, viene proiettato nel vuoto e la gente impazzisce. Naturalmente c'è un prezzo non indifferente da pagare per tutta questa teatralità. I think I've had more accidents on stage. Credo di aver avuto molti più incidenti sul palcoscenico di quanti ne abbia avuto guidando la moto o l'aeroplano o facendo immersioni subacquee. Mi sono rotto il naso, rotto le costole, sono caduto dal palco, mi è successo di tutto. E questa è la prima musica che io ho sentito dal vivo, perché il primo concerto della mia vita fu Emerson, Lake & Palmer al Vigorelli di Milano e partirono proprio con questa musica, il mio imprinting musicale. L'avventura continua, grandissimi concerti e poi grandi album ancora, perché dopo Tarkus esce Pictures of an Exhibition e poi Trilogy e poi Brian Salad Surgery. Nella seconda metà degli anni 70 altri tre album, però il sistema Emerson, Lake & Palmer a quel punto comincia a mostrare le corde, perché in Inghilterra sta arrivando il movimento punk che vuole, come dire, abbattere tutti quelli iper preparati sugli strumenti a favore di un altro tipo di approccio, della rabbia, della rivalsa sociale. E insomma è cambiato qualcosa, suonare da Dio non è più così importante. Forse proprio il concetto di super band a quel punto viene ritenuto stucchevole, non c'è più lo spazio per il Moog di Emerson, e così nel 79 Emerson, Lake & Palmer si sciolgono. Per Keith Emerson inizia una carriera da solista, e qui c'è il mio secondo incontro con Emerson nell'80 al Festival di Sanremo. Lui era lì perché era il fidanzato di una cantante in gara. Naturalmente noi Decibel siamo arrivati, ci siamo buttati ai suoi piedi e abbiamo fatto le foto, insomma, da fan. E nel frattempo invece arrivavano delle ragazzine che mi chiesero se Emerson era uno dei Decibel, e noi gli abbiamo detto purtroppo no. Comunque la carriera da solista di Emerson passa anche per l'Italia, perché viene chiamato dal nostro Dario Argento per lavorare a una produzione, Inferno. Era una collaborazione che Argento aveva cercato da tanto tempo. Io penso che in ogni caso niente è casuale, anche se apparentemente potrebbe essere casuale l'incontro fra un musicista e un regista. Invece no, perché stranamente erano 5 anni che noi volevamo lavorare insieme, non ci conoscevamo, però appunto io credo che ciò prescinda dal caso, si possa parlare anzi di destino. Non a caso il primo lavoro di Emerson fu un disco che si chiamava Le Tre Parche, e Le Tre Parche riappaiono in questo film. Lui l'aveva scritto 15 anni fa, adesso invece troviamo a rifarle. Con lui ho usato le immagini, il film, le varie sequenze del film come fosse il libretto per un operista, per un musicista d'opera. Quindi gli è venuto semplice e spontaneo. E poi Emerson scrive per altri film, fa degli album da solista, ha un grandissimo successo in Italia con Honky Tonky Train Blues, sigla di un fortunato programma televisivo che era Odeon. L'ultima fatica di Casanova, l'ultimo combattimento del lupo da brutto, l'ultima ballata di successo. Poi arrivano gli anni 90, molto meno generosi con Emerson, moltissimi soldi persi in seguito al divorzio dalla moglie, poi la sua amatissima casa nel Sussex che viene distrutta da un incendio, e poi un problema ai nervi della mano destra, che ho potuto verificare perché nel terzo incontro a un programma televisivo qualche anno fa lui suonò dal vivo ed era formidabile con la mano sinistra e invece decisamente stentoreo con la mano destra. Insomma, un decennio da dimenticare. Poi nel 2000 una nuova fidanzata, il trasloco negli Stati Uniti, una reunion con i Nice, poi una con Emerson, Lake & Palmer, anzi un'altra con Emerson, Lake & Powell, Cozy Powell, batterista molto bravo ma forse non all'altezza di Carl Palmer, e poi altri problemi di salute, e poi l'operazione allo stomaco, e poi ancora i disturbi con questa maledetta artrite, che è una nemesi terribile per un musicista che aveva fatto delle sue mani le sue ali per volare. Insomma, la possibilità e il timore di non poter più riuscire a suonare che gli provocano una terribile depressione. L'epilogo avviene il 16 marzo 2016 in Los Angeles. Un colpo alla tempia pone fine alla leggenda di Keith Emerson. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono persone ancora più speciali, persone che hanno inventato un mondo sonoro nel caso di Keith Emerson, persone che hanno fatto scuola a tutti. C'è chi è riuscito, c'è chi ha tentato e chi ha avuto cadute e risalite, come nel caso del nostro protagonista, l'ultima terribile caduta, diciamo, dell'anima. Ma Keith Emerson è un musicista che rimarrà nei secoli per le cose che ha lasciato. Se volete mandarci dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina o venite nei Twitter, nei Facebook del Falco e il Gabbiano o dei miei, insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.